Letture di Radio 24. La fantasia usata dai media in occasione degli ultimi attentati terroristici per evitare di associare la parola terrorismo all'Islam mostra l'incapacità occidentale di capire un fenomeno che non è più solo una guerra civile tra sciiti e sunniti, ma sta minacciando tutte le democrazie occidentali, commenta Angelo Pezzana, attivista politico e fondatore del primo movimento di liberazione omosessuale, in una lettera aperta inviata al direttore della Stampa. Caro direttore, si dice che non tutti i musulmani sono terroristi. È vero, ma si omette che tutti i terroristi sono musulmani, danneggiando così anche quei musulmani che terroristi non sono. Ci si guarda persino dall'usare la parola terrorista, sostituita molto spesso con radicale, che non turba la tranquillità di chi legge o chi ascolta. Non bisogna preoccupare chi vive in un'Europa dove tra non molti anni le nostre società, da libere e democratiche, saranno costrette a riconoscere la legge islamica, la Sharia. La maggior parte degli europei non sa nemmeno che cosa sia, perché non glielo si dice, sempre per non sembrare islamofobi. Eppure, fobia vuol dire solo paura. E se si raccontasse semplicemente in che cosa consiste la Sharia, che coloro che gridano Allah Akbar mentre ammazzano gli infedeli vorrebbero imporci, forse cominceremmo a chiederci perché dobbiamo accettare che i terroristi islamici ci vengano presentati come elementi radicali, una qualifica che non ci permette di conoscere ciò che sta realmente avvenendo intorno a noi. Tutte le stragi nel nome di Allah hanno seguito un percorso ormai appurato quasi identico. Anche i lupi solitari erano un'interpretazione sostitutiva di terrorista islamico. Tra le ultime, in Belgio, a Charleroi, un tizio, non c'è dato sapere di più dalle cronache, estrae da una borsa un macete e si avventa contro due poliziotte. Ne ferisce una gravemente al viso urlando «Allah Akbar!», colpisce la collega finché una terza donna poliziotto che ha assistito alla scena gli spara alle gambe e al torace. Il premier belga Charles Michel ha dichiarato «Sembra un attacco con connotazione terrorista». In questa concisa affermazione sta l'incapacità occidentale a capire un fenomeno che non è più soltanto una guerra civile fra sciiti e sunniti interna al mondo islamico, ma che sta minacciando tutte le democrazie occidentali, che continuano a chiedersi quali siano mai le ragioni che spingono alcuni a sacrificare anche la propria vita pur di toglierla a coloro che vengono definiti infedeli. Il primo ministro belga ha espresso a voce alta ciò che scrivono ormai da anni coloro che vogliono nascondere le radici del fenomeno terrorismo, nella speranza di convincere coloro che vogliono distruggere le nostre società, che noi occidentali democratici li capiamo, non ce l'abbiamo con loro. Anche se mentre fanno stragi urlano Allah Akbar. Noi non ci facciamo caso, anzi, escludiamo nel modo più netto che c'entri la religione islamica. Sosteniamo, quasi sempre senza averlo letto, che il Corano è un libro di pace, che le stesse religioni sono simboli di pace, quando da che mondo è mondo guerre sanguinose sono state combattute nel nome di qualche Dio. Ma con l'Islam è diverso. I musulmani sono gente pacifica, ci dicono. Cosa indubbiamente vera, se si escludono quelli che in nome di Allah stanno seminando morte in tutto il mondo. Diamo un nome vero a quello che succede. È l'unico modo per riconoscere il male e quindi essere in grado di combatterlo, persino, forse, di vincerlo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Angelo Pezzana «Chiamiamo terroristi gli islamisti» dalla Stampa del 29 agosto 2016. Voglio la zanzara, voglio la zanzara. Oh, ma quando torna la zanzara? Tutta l'estate che mi ascolto il podcast, tutte repliche, ma quando cazzo riniziate? Oh, scandaloso, perfino lo zingaro all'incrocio è tornato a lavorare. Giuseppe Cruciani, David Parenzo, la zanzara, fra poco di nuovo in onda. Letture di Radio 24. Nei giorni scorsi, come prevedibile, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha approvato la decisione del Consiglio di Stato francese di opporsi al decreto voluto da alcuni sindaci francesi che vietava il burkini nelle spiagge. Queste scelte non migliorano la situazione della sicurezza e tendono invece ad alimentare l'intolleranza religiosa e la stigmatizzazione delle persone di fede musulmana in Francia, soprattutto le donne, sentenzia l'ONU. Ma il premier francese Manuel Valls difende la sua decisione in nome della libertà della donna in Francia. La diatriba sul burkini mostra quanto sia complicato fare i conti con la società multiculturale, scrive Angelo Panebianco in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. Società multiculturale è espressione che piace alla gente che piace, a coloro che per reddito, stili di vita, quartieri in cui risiedono, non devono stare ogni giorno fianco a fianco, gomito a gomito, con le culture altre. Di tale società essi danno spesso una descrizione idilliaca. Non capiscono che le caratteristiche delle società multiculturali dipendono dai rapporti di forza fra i diversi gruppi. Quali comportamenti gli europei dovrebbero pretendere da chi viene da altre culture? Alle prese con i costumi altrui importati in Europa, essi dovrebbero operare una triplice distinzione. Ci sono usi che vanno proibiti e basta. Ci sono poi usi che vanno permessi e anche rispettati. Ci sono infine usi che vanno permessi ma pubblicamente censurati. Alla prima categoria appartengono cose come il burqa, che comporta la copertura totale del volto della donna, oppure la poligamia. Il burqa è quanto di più antitetico si possa concepire rispetto al mondo occidentale contemporaneo. Questo mondo si regge sul principio della responsabilità individuale. È la ragione per cui dobbiamo essere riconoscibili, a volto scoperto. Il burqa è espressione di una cultura altra, anzi aliena, nella quale la responsabilità degli atti di alcuni, nel caso specifico le donne, non appartiene a loro ma alla comunità o al capo famiglia. Come il burqa, anche la poligamia, fondata sul principio della disuguaglianza fra uomini e donne, è incompatibile con noi e deve restare illegale. Poi ci sono gli usi né offensivi né dannosi che vanno senz'altro permessi, usi che non sono in conflitto con i nostri principi, riti religiosi, tipi di abbigliamento che hanno un legittimo valore identitario, certe abitudini alimentari, anche se non tutte, vanno accettati con il rispetto che si deve a chi semplicemente è stato allevato sotto un diverso cielo culturale. C'è infine una terza categoria di comportamenti i quali dovrebbero essere consentiti ma anche pubblicamente disapprovati. Mi sembra che questo sia il caso del burkini. Vietarlo non ha senso per società che si dicono liberali. Qui non stiamo parlando del burqa, che, come si è visto, è un'altra storia. Solo gli stati autoritari pretendono di dettare l'abbigliamento delle persone. Lo hanno sempre fatto. Ricordate la Cina di Mao? Gli stati sedicenti liberali non possono permetterselo. Dunque il burkini non va messo fuori legge. Ma ciò non significa che lo si debba anche approvare. Il burkini non è un capo di abbigliamento come un altro. Testimonia di una sudditanza culturale, di una subordinazione alla comunità, che alla luce dei nostri principi va stigmatizzata. Devo accettare che il burkini sia legale, ma non devo solo per questo manifestare un rispetto che non provo per un'usanza che non mi piace. È insensato, in nome di una critica difesa della società multiculturale, osservare che il burkini ricorda gli abiti con cui le nostre trisavole andavano in spiaggia, a meno che chi fa la suddetta osservazione non stia anche sottintendendo che dovremmo ritornare a quei tempi. Una donna che si mette a seno nudo in una spiaggia affollata può anche essere considerata volgare, ma sta facendo comunque una scelta libera, a differenza della donna in burkini. Vietare no, disapprovare sì. La pubblica riprovazione non sarebbe fine a se stessa. Servirebbe a spronare, a incoraggiare col tempo l'emancipazione individuale, l'allentamento del controllo comunitario sull'individuo. Ma c'è un ma. Se governare una società multiculturale in formazione richiederebbe di fare la suddetta triplice distinzione, cose da vietare, cose da permettere e da rispettare, cose da permettere e da disapprovare, attenersi a questa linea di comportamento è difficilissimo, a causa di una forma di degenerazione culturale che ci ha colpito da tempo. Mi riferisco alla diffusa convinzione secondo cui legalità e moralità sarebbero sinonimi. La tendenza a pensare che se qualcosa è legale, allora sia anche moralmente rispettabile e che, per converso, se qualcosa è illegale, allora sia anche necessariamente immorale. Ma moralità e legalità a volte convergono e a volte no. Ci sono comportamenti legali che non meritano alcun rispetto. Ci sono anche talvolta violazioni di leggi stupide, che consideriamo stupide. Sono violazioni che vanno comunque sanzionate, in coerenza con quell'ideale di certezza del diritto, il cui scopo è dare un minimo di prevedibilità ai rapporti umani. Ma in questi casi non c'è proprio alcun bisogno di pronunciare anche condanne morali. La distinzione fra legalità e moralità è scomparsa dalla mente di tante persone. È un male in sé, ma è anche un male quando si tratta di gestire la società multiculturale, perché c'è il rischio che si finisca per considerare moralmente rispettabile un qualsivoglia comportamento solo perché legale. Verrebbe meno quella pressione sociale, la riprovazione collettiva di certe pratiche, che può favorire l'emancipazione individuale di cui si è detto. È l'evoluzione dei rapporti di forza fra i gruppi a decidere quale fisionomia assumerà la società multiculturale. Nei rapporti di forza contano sia la quantità che la qualità. Il gruppo culturale numericamente più forte può anche risultare, alla distanza, politicamente debole. Il che accade, ad esempio, se la maggioranza di tale gruppo è in parte indifferente o distratta e in parte divisa sulle scelte da fare, e se inoltre essa deve vedersela con una minoranza culturale sostenuta da una forte identità religiosa. Per evitare che prima o poi, a occhio più prima che poi, le società parallele che a causa della nostra dabbenaggine si sono già costituite in Europa vengano allo scoperto con tutte le loro pratiche, anche quelle per noi inaccettabili, innescando così conflitti ingovernabili, conviene che gli europei imparino in fretta l'arte della distinzione. Questo sì, questo no, questo sì, ma senza alcuna approvazione da parte nostra. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Angelo Panebianco, Il Burkini è da disapprovare, dal Corriere della Sera del 30 agosto. Mentre in tutta Italia si moltiplicano le iniziative per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto, le vicende giudiziarie che riguardano i fondi per gli interventi antisismici spariti nel nulla e il ricordo di come sono stati gestiti gli aiuti stanziati per i precedenti sismi hanno spinto il presidente del movimento politico Popolo Partite IVA a uscire dal coro. «Scusate, ma io per il terremoto non do neanche un euro», dichiara provocatoriamente Lino Ricchiuti. Ecco il testo della sua dichiarazione pubblicata lunedì scorso sull'Eco del Sud. So che la mia suona come una bestemmia e che di solito si sbandiera il contrario, senza il pudore che la carità richiede. Ma io ho deciso. Non telefonerò a nessun numero che sottrarrà 2 euro dal mio conto telefonico. Non manderò nessun SMS. Non partiranno bonifici da banche che non hanno avuto neanche il pudore di azzerarsi le commissioni. Non ho posti letto da offrire, case al mare da destinare a famigliole bisognose, né vecchi vestiti, peraltro ormai passati di moda. Ho resistito agli appelli dei VIP, ai minuti di silenzio dei calciatori, alle testimonianze dei politici, al pianto in diretta del Premier. Non mi hanno impressionato i palinsesti stravolti, le dirette non stop, le scritte in sovrimpressione durante gli show della sera. Non do un euro. E credo che questo sia il più grande gesto di civiltà che in questo momento, da italiano, io possa fare. Non do un euro perché è la beneficenza che rovina a questo paese. Lo stereotipo dell'italiano generoso, del popolo pasticcione che ne combina di cotte e di crude e poi però sa farsi perdonare tutto con questi slanci nei momenti delle tragedie. Ecco, io sono stanco di questa Italia. Non voglio che si perdoni più nulla. Siamo ancora lì, fermi sull'orlo del pozzo di Alfredino, a vedere come va a finire, stringendoci l'uno con l'altro. Soffriamo e offriamo una compassione autentica, ma non ci siamo mossi di un centimetro. Eppure penso che le tragedie, tutte, possano essere prevenute. I pozzi coperti, le responsabilità accertate, i danni riparati in poco tempo. Non do una lira, perché pago già le tasse. E sono tante. E in queste tasse ci sono già dentro i soldi per la ricostruzione, per gli aiuti, per la protezione civile, che vengono sempre spesi per fare altro. E quindi, ogni volta che la protezione civile chiede soldi agli italiani, io dico no. E nelle mie tasse è previsto anche il pagamento di tribunali che dovrebbero accertare chi specula sulla sicurezza degli edifici. E dovrebbero farlo prima che succedano le catastrofi. Il tempo del dolore non può essere scandito dal silenzio, ma tutto deve essere masticato, riprodotto, a uso e consumo degli spettatori. Avrei potuto scucirlo qualche centesimo. Poi ho ascoltato la classe dirigente dire che in questo momento serve l'unità di tutta la politica. Evviva! Ma io non sto con voi, perché io non sono come voi. Io lavoro, non campo di politica, alle spalle della comunità. E poi, mentre voi tutti avete responsabilità su quello che è successo, perché governate con diverse forme, da generazioni, gli italiani e il suolo che calpestano, io non ho colpa di nulla. Anzi, io sono per la giustizia. Voi siete per una solidarietà che copra le amnesie di una giustizia che non c'è. Io non lo do, l'euro. Perché mi sono ricordato che mio padre, che ha lavorato per 40 anni in campagna, prende di pensione in un anno meno di quanto un qualsiasi parlamentare guadagna in un mese. A proposito, quando ci fu il Belice, i miei, nonostante facessero una vita dura, diedero un po' dei loro risparmi alle popolazioni terremotate. Poi ci fu l'Irpinia, e anche lì i miei fecero il bravo e simbolico versamento su conto corrente postale per la ricostruzione. E sappiamo tutti com'è andata. Dopo l'Irpinia ci fu l'Umbria e San Giuliano, e di fronte allo strazio della scuola caduta sui bambini non puoi restare indifferente, e poi l'Aquila con quella casa dello studente. Ma ora basta. A che servono gli aiuti se poi si continua a fare sempre come prima? Io non do una lira per i paesi terremotati e non ne voglio se qualcosa accade a me. Voglio solo uno Stato efficiente dove non comandino i furbi. E siccome so già che così non sarà, penso che il terremoto sia il gratta e vinci di chi fa politica. Ora tutti hanno l'alibi per non parlare d'altro. Ora nessuno potrà criticare il governo o la maggioranza, tutta, anche quella che sta all'opposizione, perché c'è il terremoto. Ci sono migliaia di sprechi di risorse in questo paese, ogni giorno. Io non do una lira. E do il più grande aiuto possibile, la mia rabbia, il mio sdegno, perché rivendico in questi giorni difficili il mio diritto di italiano di avere una casa sicura. E mi nasce una rabbia dentro che diventa pianto quando sento dire che in Giappone non sarebbe successo, come se i giapponesi avessero scoperto una cosa nuova, come se il know-how del sollevante fosse un'esclusiva loro. Ogni studente di ingegneria fresco di laurea sa come si fanno le costruzioni. Glielo fanno dimenticare all'atto pratico. E io piango di rabbia perché a morire sono sempre i poveracci. E nel frastuono della televisione non c'è neanche un poeta grande come Pasolini a dirci come stanno le cose, a raccogliere il dolore degli ultimi. Li hanno uccisi tutti, i poeti, in questo paese. O li hanno fatti morire di noia. Ma io qui, oggi, mi sento italiano, povero tra i poveri, e rivendico il diritto di dire quello che penso. Come la natura quando muove la terra, d'altronde. E quella che avete ascoltato era la dichiarazione di Lino Ricchiuti, presidente del movimento politico Popolo Partite IVA, pubblicata il 29 agosto sull'Eco del Sud, gazzetta indipendente di informazione della Sicilia e della Calabria.